Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la politica, la cultura, adottando il punto di vista prevalente degli animali non umani. È la puntata numero 614 e parleremo di orsi arrampicatori, di leader politici impacciati, di nefaste imprese di caccia, di paesaggi sonori che cambiano. Gabriele Palloni cura sia la colonna sonora sia il contributo gastronomico della puntata. Stiamo vivendo da qualche tempo giornate piuttosto difficili e impegnative nella vita privata, quotidiana, come nella dimensione pubblica. La pandemia da coronavirus continua a condizionare le nostre vite e sembra anche conoscere una nuova fase di espansione. E intanto si succedono i vertici politici internazionali chiamati ad affrontare l'emergenza delle emergenze, ossia la crisi climatica, come siamo abituati a chiamare la progressiva devastazione degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, la minaccia alla sopravvivenza stessa della nostra specie, tutti fenomeni dovuti a un eccesso di sfruttamento delle risorse presenti sul pianeta e alle emissioni di gas nocivi che ne conseguono, con il surriscaldamento della Terra. Sono fenomeni ormai noti, di cui si parla moltissimo in questi giorni su tutti i media, come sono note le scelte che sarebbe necessario compiere per ridurre, visto che eliminare del tutto non si può, gli effetti negativi dei mutamenti climatici in corso. Sono scelte che andrebbero fatte appunto a partire dai vertici programmati proprio quest'autunno, fra Roma e Glasgow, fra G20 e COP26, come si chiamano in sigla i summit di cui stiamo parlando e di cui si sta parlando fino alla nausea, ma con chiavi di lettura spesso distorte. La sensazione generale è che le classi dirigenti, i potenti del pianeta, non solo i leader politici ma anche i dominatori nel mondo produttivo e finanziario, non abbiano né l'intenzione né gli strumenti per intervenire in modo efficace, anche perché si tratterebbe di smentire se stessi, la propria ideologia di appartenenza e di rinunciare a una parte dei propri profitti e del proprio potere. Per questo attorno a questi vertici è stata alzata una cortina fumogena nel discorso politico e mediatico che non è facile diradare. Ma è necessario farlo, perché attorno a questi temi si gioca non solo il futuro del pianeta e delle generazioni che verranno, ma anche il presente di tutti noi, il senso delle nostre vite. È anche dalle lotte che sapremo fare come società civile che dipende la possibilità di arrivare alle scelte necessarie, scelte che sono al momento poco plausibili. È dunque indispensabile, come punto di partenza, comprendere quel che sta realmente accadendo. Abbiamo chiesto a Francesco Panier, giornalista specializzato in questioni ambientali, titolare della nostra rubrica Lessico dell'Antropocene, di fare il punto su quanto avvenuto a Roma al G20 e su che cosa potrebbe accadere alla COP26 di Glasgow in corso in questi giorni. Dieci giorni per evitare di incagliare la barca del mondo sull'ultima spiaggia. È questo il tempo che ci separa dalla cerimonia di chiusura della COP26, la conferenza mondiale sul clima, iniziata il 31 ottobre, nel giorno in cui finiva un altro atteso appuntamento, il G20 di Roma. Momenti questi in cui i cosiddetti grandi del mondo si incontrano sui tavoli internazionali per discutere di quale direzione imprimere all'economia, di come gestire la crisi pandemica e climatica, di quali strategie adottare per evitare le crescenti contestazioni sociali. Il livello delle sfide sembra alzarsi di giorno in giorno, ma quello degli impegni rimane drammaticamente stazionario sotto il minimo sindacale. Pensate che i 20 grandi riuniti a Roma nel fine settimana non sono riusciti nemmeno a mettersi d'accordo sui fondamentali: su quando portare a zero netto le emissioni climalteranti, quando raccogliere i fondi promessi 11 anni fa ai paesi poveri per contrastare il cambiamento climatico, o su quando mettere fine all'utilizzo dei combustibili fossili. E se non c'è accordo tra loro, che rappresentano il club più esclusivo e potente, quale passo avanti si potrà fare all'interno di un ambiente molto più ampio e inclusivo come la COP26 sul clima di Glasgow? A quel tavolo i grandi del mondo si troveranno davanti i negoziatori di paesi poveri, affamati ed esposti alle crescenti intemperie causate dal riscaldamento del pianeta. E ancora una volta rischiano di deluderli. Loro, ma anche tutto l'universo ecologista dei movimenti sociali che osserva da vicino il vertice, chiedendo azioni concrete. Tra i temi più scottanti ci sarà, come detto, quello dei trasferimenti finanziari promessi dai paesi industrializzati ai paesi più poveri. Ma il vero convitato di pietra lungo le 2 settimane di trattative nella capitale scozzese saranno gli allevamenti intensivi. Fino ad oggi, né i report dell'IPCC né le politiche per il clima hanno preso sul serio il ruolo dell'industria alimentare, e in particolare della zootecnia, nella crisi ecologica. Il costante sfruttamento degli animali sta contribuendo a questa crisi, ritorcendosi contro l'umanità che vi partecipa, da produttore o consumatore, ma anche contro quella che non vuole averci nulla a che fare. Eppure, a parte i generici inviti a consumare meno carne, nessuno si è preso davvero la responsabilità di mettere in campo strategie per porre fine all'era degli allevamenti intensivi. Sembra incredibile, ma alla COP sul clima la zootecnia è un tabù più grande delle centrali a carbone. Oltre 50 organizzazioni animaliste hanno chiesto che il forum se ne occupi invece al più presto, e a Glasgow un timido passo avanti potrebbe essere fatto grazie a negoziati portati avanti su tavoli secondari. Ma finché guarderemo agli altri animali come fonti di gas serra e non come individui degni di considerazione morale, non troveremo gli strumenti per affrontare il collasso etico ed ecologico in cui oggi siamo sprofondati. Torniamo a parlare di caccia, una questione sempre di attualità per gli animali e anche per il mondo degli attivisti animalisti, visto che le doppiette sono in azione e che sono in ballo alcuni quesiti referendari che potrebbero l'anno prossimo arrivare all'attenzione generale, se le firme raccolte saranno sufficienti e ci saranno i via libera previsti dalla legge per convocare tutti alle urne. Ne riparleremo appena il quadro normativo sarà più maturo, dopo l'annuncio dato nei giorni scorsi del raggiungimento delle firme necessarie, firme però in attesa di verifica da parte degli organi preposti. Parliamo quindi di caccia per dire di una notizia particolarmente dolorosa, però sempre emblematica. Un raro esemplare di aquila reale è stato abbattuto nella zona del Monte Grappa, in provincia di Treviso. Il corpo è stato rinvenuto da attivisti della LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, che hanno dovuto annunciare mestamente che si trattava dell'unico esemplare giovane di aquila reale presente nella zona. Andrea Zanoni, attivista animalista e consigliere regionale del Veneto, ha commentato così la notizia. «È una cosa tristissima», ha detto. «Stiamo parlando di una specie super protetta e per chi la caccia è previsto anche l'arresto. Faccio un appello agli inquirenti per rintracciare chi ha sparato. Spero che vengano incrociati i dati dei soggetti che erano in zona tramite le celle telefoniche e il controllo dei tesserini di caccia, visto che c'è l'obbligo di segnalare ogni uscita. Non dovrebbe essere impossibile», dice Zanoni. «Si tratta di soci delle riserve alpine, quindi di un numero limitato di persone sulle quali indirizzare le indagini. La caccia e i cacciatori, come sempre, sono all'origine di queste gravissime uccisioni, per quanto le associazioni venatorie preferiscano di solito, anziché indagare e individuare i responsabili, respingere le accuse e parlare non di cacciatori ma di bracconieri, come se questa figura fosse del tutto estranea al mondo della caccia convenzionale». Zanoni ha formulato una proposta interessante che potrebbe aiutare nella responsabilizzazione generale. Prevedere la misura accessoria della moratoria di 5 anni della caccia nei comuni in cui avvengono fatti del genere. Diventerebbe quindi un interesse comune individuare e colpire i responsabili di atti come questo avvenuto sul Monte Grappa, l'uccisione di una giovane aquila reale. Dopo i cinghiali, ecco gli orsi, gli istrici, i cervi. Le cronache dei quotidiani e delle TV sono prodighi di notizie riguardanti gli animali selvatici in questo periodo. Più volte abbiamo parlato del modo scandalistico e strumentale, tipico dei grandi media, nel trattare gli avvistamenti di animali selvatici nei centri abitati. Pensiamo al caso dei cinghiali a Roma. Ma si tratta comunque di un argomento importante e complesso. Nei mesi del lockdown più stretto l'anno scorso abbiamo tutti scoperto quanti animali vivano liberi nelle nostre città, piccole o grandi che siano, solitamente nascosti e invisibili, ma in quel caso più facilmente avvistabili, perché meno timorosi, dato il maggiore silenzio e il minore affollamento nelle settimane del nostro confinamento in casa. La convivenza con gli animali selvatici, insomma, è una realtà quotidiana, in special modo, ovviamente, nei centri abitati di campagne o di montagna, più vicini ai boschi e alle aree libere, ma la questione riguarda anche la vita urbana tout court. Nei giorni scorsi hanno fatto notizia il caso di un orso che nel Frusinate si è addirittura arrampicato sul terrazzo di una villetta, spaventando il proprietario, che si è gettato di sotto per trovare scampo, mentre a Tarvisio una coppia si è trovata alle prese con un grosso cervo e entrambi i coniugi sono rimasti feriti seriamente. Ci sono poi stati avvistamenti insoliti, ma non problematici perlomeno, per esempio di un istrice a Roma, di un lupo ad Ancona. Fra i tanti che hanno trattato questo argomento, ci pare utile citare la riflessione di Vincenzo Pardini, pubblicata sul quotidiano nazionale, il fascicolo comune al resto del Carlino, Nazione e Giorno. Pardini è uno scrittore particolarmente sensibile al mondo animale, che conosce da vicino, ed è autore di racconti e romanzi che hanno spesso animali fra i protagonisti. Citiamo per tutti Il viaggio dell'orsa, pubblicato nel 2011 dall'editore Fandango. Pardini, nel suo intervento sui quotidiani citati, evita toni scandalistici e anche la retorica della sicurezza, preferendo concentrare l'attenzione sulla necessità di una convivenza fra società umane e animali selvatici. Gli animali selvatici, scrive a un certo punto nel suo articolo Pardini, dotati di fiuto e udito finissimi, avvertono a distanza situazioni avverse. I lupi pare addirittura fin da 800 metri ci percepiscano, cambiando così percorso. Ma da qualche tempo a questa parte la loro presenza nei paesi, nelle periferie e perfino nei pressi delle città sta facendosi frequente. Oltre alla ricerca di cibo, vi è da pensare che si stiano assuefacendo a nuove realtà, fra cui quella di voler iniziare una convivenza con gli umani, che evitano il necessario in ossequio alla loro natura selvatica e indipendente. Di conseguenza, noi dobbiamo abituarci alla loro presenza, così come vi si erano abituati i nostri nonni e antenati. Gli animali selvatici, scrive ancora Pardini, non sono sprovveduti come molti di noi pensano, sanno attuare per la propria sopravvivenza le strategie migliori, al punto di allontanarsi dai boschi e cercare un approccio con gli umani, nonostante sappiano, attraverso la memoria genetica, che siamo i predatori più spietati, in quanto li uccidiamo più per diletto che per necessità. In molte zone d'Italia, specie in montagna e in collina, al calare della sera inizia un'atmosfera insolita. Dalle selve può accadere che si innalzino gli ululati dei lupi, oppure il ruglio di qualche orso, adesso vicini al letargo, a cui si può unire il bramito di un cervo. Momento in cui i cinghiali, sempre in branco per difendersi meglio dai lupi, si avvicinano alle case, si inoltrano nei castagneti. Finite le notti silenziose e solitarie. Alla nostra vita di giorno, fatta di traffico e rumori meccanici, segue quella di notte, dove i nostri compagni di pianta si manifestano ricordandoci le nostre origini e la nostra storia. Così Pardini. Sulle vicende dell'orso nel Lazio e del cervo in Friuli Venezia Giulia è intervenuta anche la LAV, Lega Anti-Vivisezione, precisando che le condotte dell'orso e del cervo non sono troppo sorprendenti. L'orso, dice la LAV, potrebbe essere stato attratto dagli odori del cibo, tanto da arrampicarsi sul terrazzo di casa, mentre il cervo potrebbe semplicemente aver reagito a una inaspettata intrusione nella sua arena. L'incontro fra persone e animali, dice Massimo Vitturi, responsabile LAV per i selvatici, non può essere considerato un evento eccezionale quando si vive ai margini di territori selvatici, come in questi casi. La convivenza pacifica con questi animali, continua Vitturi, è non solo possibile, ma rappresenta l'unica prospettiva praticabile. Siamo noi umani a dover accrescere conoscenza e rispetto del loro mondo, adeguandoci di conseguenza alle sue regole e non viceversa, quando abbandoniamo gli ambiti urbanizzati. Gabriele Palloni, come ogni settimana, ci regala una ricetta, rigorosamente cruelty free naturalmente, che prende ispirazione dalle notizie della puntata. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Se la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ci porta a Glasgow, la ricetta di oggi non può che essere dedicata alla Scozia e ai suoi tipici pie, rivisitati ovviamente in chiave vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per lo scotch pie con tempe sono: per la pasta 300 g di farina tipo 0, 80 g di olio di semi di girasole, 40 ml di latte di soia al naturale, un cucchiaio di lecitina di soia, 70 ml di acqua e un pizzico di sale. Per il ripieno 300 g di tempe, una cipolla, un cucchiaino di miso di riso o miso di soia, 100 ml di brodo vegetale, 10 g di amido di mais, una tazzina di gin, un pizzico di noce moscata, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di curcuma in polvere, sale e pepe. Iniziate preparando la pasta per i pie. Emulsionate il latte, la lecitina di soia e l'olio di semi di girasole con un frullatore ad immersione. In un recipiente unite il resto degli ingredienti per la pasta e lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza lavorare troppo per ottenere una maggior croccantezza. Avvolgete la pasta nella pellicola e fate riposare 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo sbucciate la cipolla ed affettatela finemente. Fatela scottare con mezzo bicchiere di acqua e quando questa si sarà ritirata, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete il tempe, tagliato a quadretti, e sfumate con il gin. Aggiungete la noce moscata, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere per 10 minuti. A parte stemperate l'amido di mais con il brodo vegetale e il miso di riso. Unite un cucchiaio di olio extravergine e fate cuocere fino a quando la salsa non inizierà a sobbollire e addensarsi. Unite il tempe alla salsa e fate ritirare qualche minuto, quindi lasciate raffreddare. Recuperate la pasta e stendetela a 4 mm di spessore. Ricoprite l'esterno di 4 bicchieri con della pellicola per alimenti e successivamente rivestiteli con la pasta in modo da ottenere 4 cilindri con il fondo. Fate riposare in freezer per 30 minuti. Togliete dal freezer delicatamente e staccate la pasta dai bicchieri. Togliete la pellicola e farcite i cilindri con il tempe e la salsa. Chiudete i pie con un disco di pasta sigillando bene i bordi. Praticate un foro per far uscire il vapore su ogni pie. Stemperate la curcuma con una tazzina di acqua e un cucchiaio di olio extravergine e spennellate la superficie dei pie con questa miscela. Fate cuocere per 45 minuti in forno a 150 gradi in modalità statica. Una volta cotte, lasciate intiepidire prima di servire. Momu, moni Chiudiamo con una notizia che ci riporta alla puntata della settimana scorsa, curata da Anna Granata e Gianluca Masala e dedicata a opere di musica classica dedicate agli animali. Una bellissima colonna sonora che vi invitiamo a riascoltare attraverso il podcast sul nostro sito restiamoanimali.it. La notizia, dicevamo, riguarda il progressivo ritiro nel nostro paesaggio sonoro del canto degli uccelli. Uno studio condotto dai ricercatori coordinati dall'University of East Anglia di Norwich, nel Regno Unito, e pubblicata su Nature Communications, ha ricostruito il cambiamento del paesaggio sonoro primaverile nel corso degli ultimi 25 anni in oltre 200.000 località sulle due sponde dell'Atlantico. I cambiamenti causati dalla riduzione del numero degli uccelli, hanno concluso i ricercatori, hanno reso i paesaggi sonori naturali nel complesso più omogenei e più silenziosi. Si è così creata anche per questa via una disconnessione fra le persone e gli ambienti naturali. Più della metà della popolazione mondiale ormai vive in città e le opportunità di contatto diretto con l'ambiente naturale sono in costante diminuzione. Insomma, c'è una colonna sonora da ricostruire e ci sono esperienze sonore da fare lontano dalla città. Cacciatori, naturalmente, permettendo. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.